faccia, amore, dormi. Quando il tuo viso trova pace e il tuo respiro si fa lieve, dormi, nessuna mano può sfiorarti e nessun altro può vederti, e così sei soltanto mia. Ma poi non so in che mondo sei andata, non so perché sorridi piano, non so se mormori il mio nome. Dormi, ma non lasciarmi troppo indietro. Vorrei dormire nel tuo cuore, respirare insieme a te. Dormi, amore, dormi.